Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come stiamo facendo purtroppo da questa mattina anche nel corso di Focus Economia vi daremo aggiornamenti sulla situazione delle nuove scosse di terremoto in Emilia e questa volta colpita purtroppo anche Mantova, ma non solo. Alle 18.07 Focus Economia diventerà una specie di aggiornamento in diretta di quello che sta capitando. Chiaramente la tragicità è rappresentata dai morti e ci sono però anche i danni materiali, quindi danni alle cose oltre che alle persone. Per quello che riguarda il resto della giornata economico-finanziaria è chiaro che la notizia più forte riguarda gli arresti ai domiciliari dell'ex numero uno della Popolare di Milano, l'ex presidente Massimo Ponzellini. È finito agli arresti domiciliari insieme al suo ex collaboratore Antonio Cannalire nell'ambito dell'inchiesta milanese su un finanziamento sospetto da 148 milioni di euro alla società Atlantis di Francesco Corallo. Contestate a Ponzellini, che ha già un procedimento in corso per la vicenda che alcuni di voi ricorderanno del convertendo, di quell'obbligazione convertibile in azioni della Popolare di Milano che ha visto sostanzialmente invischiati migliaia, se non ricordo male 15.000 risparmiatori, i quali non avevano capito, per come era formulato anche il contratto, che la banca avrebbe potuto convertire a sua scelta liberamente quell'obbligazione in azioni, e ci perdono tantissimo in questo momento, oltre l'80% del capitale. Dicevo, c'è già un procedimento in corso per quella vicenda e adesso ha anche quello relativo appunto all'accusa di associazione a delinquere e corruzione, perché secondo l'accusa a Ponzellini sarebbero state versate o promesse tangenti per un totale di quasi 6 milioni di euro per sbloccare finanziamenti quando lui guidava la banca a favore di diverse società. Nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano risulta indagato anche l'onorevole Marco Milanese, lo ricorderete, braccio destro dell'ex ministro Tremonti e in passato anche ufficiale della Guardia di Finanza, già coinvolto in altre vicende. Ne parleremo praticamente in apertura. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Per quello che riguarda invece il mercato, è chiaro che la Popolare di Milano risente di questa vicenda e perde il 4%, la Popolare di Emilia Romagna perde il 3,33%, il peggior titolo però è A2A, meno 4,60%, male anche Telecom Italia, meno 2,70%, Monte dei Paschi, meno 2%, Mediolanum, meno 1,5%. Altri titoli però vanno molto bene, in pregiro ne parleremo, più 7%, Exor più 4,90, Prismian più 4,80, Azimut più 4,30, come Fiat, Buzzi Unicem più 4% come Luxottica, Tod's guadagna il 3,30% come Saipem e Pirelli, Tenaris più 3, Mediaset più 2,5 come STMicroelectronics e Fiat Industrial. Euro sempre fermo a quota 1,2527. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo sui mercati per quello che riguarda l'aggiornamento dell'oro, nuovo calo a 1.573 dollari l'oncia, il petrolio apre in rialzo a 91 dollari al barile, ma sempre ampiamente sotto i 100 dollari al barile. Per quello che riguarda invece la crisi dell'area euro, la fuga dal rischio continua a premiare la Germania, che è lo stato che si sta avvantaggiando di più in Europa. Perché lo dico? Perché il rendimento pagato agli investitori dal Bund tedesco, ossia quanto diciamo costa alla Germania indebitarsi come paese, ha toccato un nuovo minimo. Il BTP decennale tedesco rende l'1,34 lordo, cioè siamo a rendimenti negativi su 10 anni, perché se elevate l'inflazione che è sul 3%, vuol dire che in Germania in questo momento per lo Stato tedesco è più conveniente indebitarsi, perché tanto i rendimenti sono negativi, e anche per un operatore diventerebbe più conveniente indebitarsi che non tenere i soldi, tanto il rendimento è negativo. minimi storici anche per i decennali finlandesi, i BTP a 10 anni finlandesi all'1,63%. Come è andata la nostra asta invece? Il tasso è salito al 2,1% contro l'1,7% del mese scorso per quello che riguarda i bot a 6 mesi. 8 miliardi e mezzo collocati oggi, buona la domanda, una volta e mezza l'offerta. E sempre per quello che riguarda però i nostri conti pubblici, l'INPS ha fatto sapere oggi di aver erogato nel 2011 18 milioni e mezzo di pensioni, incluse le indennità di accompagnamento, sia di natura previdenziale che assistenziale, a 14 milioni di pensionati. La spesa pensionistica complessiva è aumentata ed è pari a 195 miliardi di euro, 196 per la precisione, più 2,5% rispetto al 2010. Non ho detto l'indice, avete ragione, scusate. Milano più 0,55, Parigi più 1,5, Francoforte più 1,5, Londra più 0,70, l'America più 1,15%, Chidovenia, hanno ragione gli ascoltatori. Andiamo avanti con le altre notizie sempre relative al mondo delle pensioni. Nel 2011 l'INPS ha erogato a 7.200.000 pensionati, cioè la metà, il 52%, ha erogato pensioni sotto i 1.000 euro. Ha poi revocato 41.000 pensioni di invalidità, il 15% totale delle 270, il 15% delle 274.000 posizioni verificate, ossia 15 su 100 di quelle verificate risultavano false, perché appunto le ha, o comunque non con i requisiti, le ha infatti l'INPS revocate. Nel controllo delle imprese, gli enti preposti alla vigilanza, INPS, INAIL, ENPAS, il Ministero del Lavoro, hanno controllato 244.000 aziende e pensate, il 61% aveva irregolarità di carattere contributivo, quindi o per l'INPS o per l'INAIL o per l'ENPAS. I lavoratori interessati alla cassa integrazione sempre nel 2011, ha fatto sapere l'INPS, sono stati 1.400.000 persone, stiamo parlando del 10% dei lavoratori dipendenti, cioè 1 su 10 è in cassa integrazione, e ha speso l'INPS per il sostegno al reddito, quindi cassa integrazione, disoccupazione, indennità di mobilità, compresa la copertura per le contribuzioni figurative previste, ha speso, dicevo, 19 miliardi di euro, contro, leggermente meno rispetto al 2010, quando furono 19 miliardi e 700 milioni. E poi Mastro Pasqua è intervenuto sugli esodati, ma ne parleremo più avanti nel corso della seconda parte del programma, dicendo che la copertura agli esodati va data a tutti, non solo ai 65.000. Anche il ministro Fornero ha detto adesso abbiamo il decreto per i primi 65.000, poi ci metteremo in moto con le parti sociali per cercare una soluzione per gli altri esodati. Io vorrei adottare il famoso titolo del Sole 24 Ore, fate presto però, perché insomma, prima avete fatto la riforma, poi vi siete accorti che c'erano gli esodati, non si fa così. Ultime due notizie. Un vero e proprio crollo dei mutui, quello che si è registrato nel quarto trimestre del 2011, i mutui infatti sono calati del 31% rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente, non è il valore dei mutui, sono proprio le richieste dei mutui, e in tutto il 2011 il numero di mutui è calato del 14%. E poi la vicenda Fiat. Allora, confermati gli obiettivi 2012 per Fiat Chrysler in America e nel resto del mondo, ma saranno rivisti quelli in Europa. Lo ha confermato il presidente John Elkann, precisando che il margine operativo lordo sarà confermato tra i 3,8 e 4 miliardi e mezzo. Poi c'è una dichiarazione di Elkann che farà discutere, perché dice il presidente di Fiat, di Exor, scusatemi, Exor continuerà a investire in Italia. Nell'ultimo quinquennio Fiat ha investito 3 miliardi, Fiat Industrial, cioè autotrattori, 3 miliardi, Fiat quasi 10. Ma questo non è un fatto dovuto, ci deve essere la volontà del paese. Investiremo in Italia, ma non è un fatto dovuto. E prima di passare alla vicenda di Ponzellini, abbiamo una notizia carina di nuovo sulla crisi per gli altri, sulla crisi per quelli che la crisi non la vivono, non la vogliono vedere, non sanno cosa sia, fanno finta che non esista. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E allora è sempre la regione Sicilia, devo dire non sempre, anche la regione Friuli, anche altre, la regione Lombardia, la regione Campania, però la regione Sicilia, abbiamo anche criticato le spese per esempio per le auto della provincia di Trento e di Bolzano, per le auto dei presidenti, però la regione Sicilia diciamo c'è un quibus, qualcosa che non so, la lascia sempre in testa alla nostra rubrica ma cos'è questa crisi, insomma. Risparmiare era la parola d'ordine del governo regionale presieduto da Raffaele Lombardo. Il 7 ottobre 2010 il neopresidente diceva: la nostra idea è quella di eliminare gli enti inutili. Il 19 agosto del 2011 Lombardo ha aggiunto e confermato: la riduzione delle spese l'abbiamo deliberata ed è congrua. Sarà il New Deal siciliano se Dio vuole. Evidentemente Dio non ha voluto e vi spiego perché. Perché il carrozzone più costoso della regione Sicilia è l'ARSEA, agenzia della regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, costa 800.000 euro, no? Voi direte vabbè, costa 800.000 euro ma avrà fatto qualcosa? No, dal 2006 al 2012 non ha mai funzionato e ha sul gruppone un dirigente generale, un collegio dei revisori e un comitato di indirizzo. E poi c'è l'ARAN, l'agenzia per la rappresentanza negoziale della regione, doveva essere soppressa nel 2012, è ancora lì e per funzionare, cioè per esistere, costa 300.000 euro. Poi c'è l'Istituto Autonomo Casse Popolari, doveva essere sciolto, è ancora in vita. Il Consorzio per la ricerca sul rischio biologico, che deve sostenere le imprese agricole nell'innovazione, è costato alle casse mantenere questo ente 250.000 euro, non sappiamo cosa abbia fatto. Sulla stessa scia la società SRL Cine Sicilia, costituita nel 2007 per realizzare e valorizzare l'attività cinematografica audiovisiva dello spettacolo dal vivo in Sicilia, dal 2009 non pubblica bandi. E chiudiamo con i 230.000 euro destinati alla stazione sperimentale per la granicoltura, i 2.3 milioni all'istituto di incremento ippico e i 3 milioni all'istituto zootecnico. Comunque secondo me la numero uno, a mio avviso, è ARSEA, 800.000 euro di costo, non funziona dal 2006 e costa 800.000 euro, e a mio avviso anche SRL Cine Sicilia, che non, dal 2009 non pubblica bandi, e quindi l'Oscar va a tutta la regione Sicilia, dai, al presidente Lombardo per non essere da poco. E dalla regione Sicilia, presidente Lombardo, ci faccia sapere cosa farà di questi enti, per favore. Non riusciamo a capire. Cioè, 230.000 euro per la stazione sperimentale per la granicoltura. 230.000 euro. Ma poi dateci un risultato. Basterebbe quello. Dicevo, dalla regione Sicilia ci spostiamo invece in Lombardia, o meglio, in quella che è la banca più importante della Lombardia, la Popolare di Milano, che è una banca che in questo momento quota 31 centesimi di euro, meno 4,20%, già sotto i riflettori in senso negativo per quell'operazione, ripeto, di conversione di un'obbligazione in azione che poteva essere decisa unilateralmente, peccato che chi ha sottoscritto quell'obbligazione non se ne fosse accorto. Sono migliaia di risparmiatori che perdono dall'80 al 90% e vorrebbero fare una class action, e lì c'è già un procedimento verso Massimo Ponzellini. Oggi però è arrivata l'altra botta. Eh sì, perché il titolo ha perso nell'ultimo anno l'83% del suo valore in borsa, ma oggi l'accusa a Massimo Ponzellini, che è gli arresti domiciliari, ex numero uno, è associazione a delinquere e corruzione. Siamo con il collega Stefano Elli del Sole 24 Ore. Stefano, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti voi. È un'accusa un po' strana, se ce la puoi spiegare esattamente, poi veniamo anche al resto, al cotè più degli aiuti, perché qua sta saltando fuori l'ex ministro Romani, sollecitò un finanziamento a Massimo Ponzellini, Paolo Berlusconi, stando all'ordinanza, anche Paolo Berlusconi infatti si era rivolto a Cannalire, questo altro personaggio, ai domiciliari assieme a Ponzellini, per ottenere finanziamenti. Intanto andiamo sul capo d'accusa e poi chiariamo il resto. Ecco, nell'ordinanza di custodia cautelare si parla di corruzione privata, no? Citando l'articolo 2635 del Codice Civile, ed è un articolo che è stato contestato veramente poche volte nella storia delle patologie economiche dalla Procura di Milano. È un articolo che va piuttosto che alla corruzione privata, che è un termine tecnicamente improprio, va a definire l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. È una fattispecie giuridica che è stata modificata due volte, la prima nel 2002, la seconda nel 2010, e resta il fatto che la corruzione in senso tecnico è circoscritta alla pubblica amministrazione e non al settore privato. Quindi è sbagliato tecnicamente dire che è l'accusa di corruzione. Io ho fatto un giro prima degli tra alcuni avvocati proprio per cercare di capirlo, c'è stata perplessità proprio in ordine a questa definizione. Quindi comunque il tipo di reato contestato, se lo possiamo ripetere così inquadriamo anche la vicenda, è infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. Ecco, tradotto, di che cosa si accusa Ponzellini e Cannalire? Perché qua stanno saltando fuori nomi anche appunto dell'ex ministro Romani, di avere ricevuto tangenti in cambio di cosa? In cambio di erogazione del credito. Guardi, io per riuscire a ottenere una linea di credito importante alla Popolare di Milano, secondo l'accusa dei PM, non passavo attraverso i canali ufficiali, ma attraverso questa sorta di cupola, come l'ho già definita in un articolo, una sorta di cuspide non formale che governava appunto l'erogazione del credito, sì. E soprattutto il ruolo centrale di questo Antonio Cannalire, che a giudicare appunto da quello che si legge in ordinanza di custodia cautelare sembra essere proprio l'uomo di raccordo con un certo mondo politico specialmente legato al centrodestra, che si rivolgeva alla coppia Cannalire-Ponzellini per ottenere vantaggi e per ottenere appunto finanziamenti, non tanto per sé quanto per aziende evidentemente di persone. Allora, nell'ordinanza, ecco perché era importante questo tuo passaggio, Stefano, infatti il GIP, nel caso dell'ex ministro Paolo Romani, parla di un finanziamento da 500.000 euro per un canale televisivo in relazione al quale Cannalire avrebbe ricevuto sollecitazioni dall'allora ministro Paolo Romani. Tra i soggetti che richiedevano finanziamenti al BPM attraverso Factotum, appunto Antonio Cannalire, c'è anche Paolo Berlusconi, sempre citato nell'ordinanza. Il fratello dell'ex premier si era rivolto, secondo la misura cautelare, a Cannalire per ottenere un finanziamento, ma l'area divisione crediti della banca aveva sollevato perplessità perché, disse un responsabile, Paolo Berlusconi chiedeva una cosa che fatta così sta un po' sull'impossibile. Questo sono estratti dell'ordinanza, per cui per rispettare quella che è la civiltà del diritto, la cultura del diritto, stiamo parlando delle accuse, non della sentenza, mi raccomando. Detto ciò, l'affare si ingarbuglia, perché su Ponzellini a questo punto ci sono due filoni di inchieste. Io ricordavo già l'altro, che è il famoso convertendo, cioè quando a 15.000 risparmiatori della Pop Milano furono vendute queste obbligazioni dicendo che era un'obbligazione convertibile, cioè che uno ha la facoltà di convertire in azioni. In realtà non era così, era un titolo con l'obbligo di conversione. Esatto. Quindi molto più rischioso, perché un conto è che tu decida che la tua obbligazione Pop Milano la vuoi trasformare in azioni, sei tu che lo decidi. Se c'è l'obbligo vuol dire che a un certo livello scatta l'obbligo di convertire, ma questo non l'aveva capito nessuno, tant'è che l'80% di questa roba è stato collocato ai privati. Vergogna, non si colloca una cosa del genere con l'obbligo di conversione ai privati, e tra l'altro privati con un profilo di rischio non adeguato alla tipologia del prodotto, perché era solo per risparmiatori aggressivi. Qua ci sono migliaia di pensionati. Ora, io il pensionato aggressivo in banca devo ancora vederlo, giusto Ponzellini? Magari ci venisse a trovare su questo. Già lo scorso maggio la Consob ha sanzionato i vertici della BPM per le modalità di collocamento, per il modo in cui avevano collocato e venduto questi prodotti, e l'ha multata per 377.000 euro. E tra l'altro la BPM poi ha anticipato dal 2013 al 2011 la conversione di queste obbligazioni in azioni, quindi tutti questi bei pensionati e risparmiatori con un basso profilo di rischio si sono visti tramutare il loro investimento, che spesso ci hanno scritto era qualche migliaio di euro di risparmi, in azioni, perdendo il 90% del loro valore. Tra l'altro, Stefano, c'è una class action che dovrebbe essere lanciata su questo. Dunque, allora abbiamo delle notizie fresche anche su questo, perché Federconsumatori, all'indomani dello scoppio del caso, ha promosso una class action e si è rivolta alla sesta sezione civile del Tribunale di Milano, che avrebbe dovuto appunto dare l'ok oppure a non dare l'ok alla possibilità della class action. Si è tenuta un'udienza il 22 maggio scorso. E qui c'è la buona notizia per i risparmiatori, perché si è ottenuto un rinvio da parte di entrambe le parti all'11 luglio e presso la sesta sezione civile ci sarà la possibilità di arrivare a un accordo. Questo merito anche della nuova gestione della BPM, che vede alla presidenza del consiglio di gestione Andrea Bonomi e all'amministratore delegato Piero Montani. Allora, giustamente scrive un ascoltatore, gli investitori istituzionali quella roba lì non l'avrebbero mai comprata, ho capito, allora a maggior ragione non la puoi collocare ai pensionati e alle vecchiette. Comunque, sono due filoni diversi, uno è avere venduto un prodotto altamente rischioso, come poi si è rivelato essere, se perdi il 90%, come lo dobbiamo definire questo prodotto, tranquillo e sano per una vita futura? E questo è un filone di inchiesta. L'altro filone, invece, quello di oggi, riguarda il fatto che, secondo l'accusa, Ponzellini e Cannaliere intascavano dei soldi tangenti per agevolare dei crediti a personaggi illustri. Quali sviluppi si attendono, Stefano, se ne attendono? Adesso non sappiamo bene che cosa possa succedere. Sicuramente ci saranno degli approfondimenti investigativi. Sicuramente si vedrà probabilmente nel corso delle prossime settimane l'evoluzione dell'inchiesta. Stiamo tutto a vedere. La cosa curiosa è che mentre BPM, titolo appunto di cui un tempo Ponzellini era presidente, va male. In pregilo, di cui Ponzellini è tuttora presidente, mi sembra che vada bene. In borsa, sì, per altre dinamiche, ma questo per non collegare, hai fatto bene a ricordarlo, per non collegare le due cose assieme, anche se pure lì ci si interroga sul futuro della società, ma il titolo guadagna 6,83%, ricordo che c'è anche una contesa in corso tra il gruppo Todini Salini e il gruppo Impregilo. ...17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molte mail, come era immaginabile, sulla vicenda Ponzellini, i domiciliari e l'ex presidente popolare di Milano. Altra tegola che si abbatte sul suo capo dopo l'accusa invece per il convertito. Mettiamola così, è vero, sono un po' caustici, però è vero, insomma, da un lato si sono rifilati a 15.000 risparmiatori del popolare di Milano. Si è rifilato uno strumento rischiosissimo, senza fare capire quanto fosse rischioso, senza che questi risparmiatori fossero nel profilo, tant'è che è stata multata la Popolare di Milano proprio per questa vicenda, cioè non avessero un profilo di rischio. La Consob l'ha multata con quasi 400.000 euro di penale. Quindi da un lato i clienti della banca gli rifili uno strumento rischiosissimo che poi viene convertito da obbligazione a azione e loro ci perdono il 90%, dall'altra, sempre stando alle accuse, i corsie preferenziali per i big della politica, in questo caso dei nomi che stanno uscendo soprattutto il centrodestra, e chiedi anche dei soldi, cioè con il tuo tramite Cannaliere. Questo, diciamo, viene fuori nel momento in cui noi da un mese, come Radio 24, Oscar Giannino, sottoscritto, andiamo avanti con la rubrica Disperati Mai, no? In cui tra i motivi di disperazione degli imprenditori c'è sì Equitalia, ma c'è anche soprattutto il rapporto col mondo bancario, e ci chiedevamo qualche mese fa, ma come ha fatto Don Verzè, pace all'anima sua, ad avere 1 miliardo dalle banche se qua non prestano neanche 10.000 euro a un imprenditore? Come ha fatto Salvatore Ligresti a fare un buco da 1,6 miliardi con le banche senza che poi nessuno se ne accorgesse, se sono così attenti a erogare il credito? Questa vicenda di Ponzellini, anche se la Popolare Milano non c'entra direttamente nel San Raffaele e nel Fondiere Sai, ci fa capire che ci sono due mondi. Allora abbiamo ripescato un'intervista nostra con Massimo Ponzellini quando era ancora numero uno della Popolare di Milano, era il 18 maggio del 2010. Gli chiesi, attenzione, voi state usando Basilea 2 per sterilizzare il credito, non avete più un rapporto umano sul territorio, come fate a decidere come erogare credito? Perché non tornate anche a un metodo più di conoscenza di chi avete di fronte e tornate a giudicare un'impresa non solo sui numeri e distinguere tra un'impresa sana e una che verrà espulsa dal mercato? Sentite la risposta dell'allora presidente della Popolare di Milano. L'impresa è un luogo dove la popolazione che ci lavora, della maggior parte degli italiani, dagli imprenditori e dipendenti, passa la maggior parte del proprio tempo. Quindi, come tutti i posti dove si vive, vivono dei problemi veri della gente. C'hanno momenti di euforia, momenti di stanchezza, gente bene, gente male, gente che cerca di approfittarne, gente che invece è estremamente generosa e dedicata completamente. Le banche sono passate da una fase gloriosa e quasi preindustriale a fare credito seguendo il bar, il pettegolezzo, l'amicizia personale, l'intuitum personae come l'unico vero elemento che potesse giudicare, dicendo beh, questo imprenditore è bravo, vabbè, i bilanci vanno male, ma poi c'hai i soldi da parte, poi ha mille vite come i gatti, tutti questi discorsi generici. Da questo con Basilea 2 si è passato agli analisti finanziari, alle agenzie di rating, ai freddi computer, ai report che guardano solo agli indici di bilancio come unica taumaturgia. Non è così neanche questo. C'è dentro la capacità degli uomini, la loro volontà, la loro forza, la loro capacità di reazione che nessun indice dirà mai. Per cui bisogna ritrovare questo equilibrio tra il bar e l'agenzia di rating che rappresenta la vita di tutti i giorni, il buon senso, la capacità di capire la gente. Questo è lo sforzo che la nostra banca sta facendo e parte da una posizione privilegiata sia sul territorio sia nella sua tradizione, ma che tutte le banche devono fare. Basilea 1, 2, 3 sono irrilevanti a questo fine. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco. Sì. Sicuramente si può superare Basilea 3 stando alle accuse del PM, non nel modo in cui avrebbe fatto Ponzellini, cioè facendosi pagare con il suo mediatore canaliere per ottenere crediti agevolati. Insomma, non è che Basilea 3 la superiamo con le tangenti, stando all'accusa. È un metodo un po' rurale, a mio avviso. Ma insomma, quanto bravi sono i banchieri quando parlano di queste cose. Poi. La borsa, che è meglio, il BPM chiaramente tra i titoli peggiori, perde il 3,84%, ma in pregiro, di cui Ponzellini è tuttora presidente, guadagna il 6,80%. Borsa. Dicevo più 6,80, i migliori e peggiori li ha fatti, diciamo, la vicenda Ponzellini praticamente, perché meno 3,84 è il secondo peggiore in realtà, A2A perde il 4,90, più 6,80 in pregiro è il migliore in assoluto. E allora parliamone con i colleghi di Radio Colle sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. In pregiro e Pop Milano. Teniamoli sì, assieme. Pop Milano è andata giù, ma in verità sul finale è pure migliorata, nel senso che a metà seduta i titoli perdevano il 12%. Poi l'istituto ha precisato che l'inchiesta su Ponzellini non impatterà sulla banca stessa e quindi i titoli sono migliorati perdendo appunto il 3,8% rispetto al 12% di metà giornata. Poi sono andate male comunque tutte le banche, anche ad esempio la Popolare dell'Emilia Romagna ha perso oltre il 3%, MPS il 2,2%, eccetera eccetera. Detto questo, invece la notizia degli arresti domiciliari di Ponzellini ha messo le ali a Impregilo, perché a questo punto si scommette su un avvicendamento ai vertici. Comunque va riferito che per onore della cronaca a sollecitare gli acquisti su Impregilo quello sono state anche altre notizie, ovvero il fatto che i vertici della società abbiano indicato che la stessa Impregilo sia in pole position per realizzare un nuovo ponte in California con una società spagnola e una americana, e inoltre si sta scommettendo sul fatto che verranno utilizzati i project bond per realizzare opere pubbliche da parte del Ministero dello Sviluppo. Notizia questa su cui appunto sta lavorando il Ministero dello Sviluppo e che ha favorito gli acquisti anche su altre società come Astaldi, Prismian e Ansaldo STS, società che appunto saranno favorite da eventuali opere pubbliche, nonché da tutto il settore cementiero, come ad esempio non a caso Buzzi è salita del 3,9%. La reazione della borsa sia su Exor che su Fiat e Fiat Industrial. Fiat è andata bene, più 3,97%, conforta ovviamente il fatto che la società possa andare bene negli Stati Uniti. Poi soprattutto è andato bene comunque tutto il comparto auto europeo, il sottoindice del settore ha registrato un progresso superiore al 3%, quindi diciamo Fiat si è mossa in linea con le concorrenti europee. Exor è andata ancora meglio, più 5%, più 5,16%, e oggi si è tenuta l'assemblea dei soci, ma soprattutto sono andate molto bene le azioni Risparmio e Privilegio, mettendo a segno rispettivamente un progresso del 9,3% e del 7%. Questo sulla scorta del fatto che lo stesso John Elkann durante l'assemblea ha dichiarato che è allo studio una semplificazione della struttura del capitale, già come è stato fatto in Fiat e Fiat Industrial, vale a dire potrebbero essere trasformate le azioni Privilegio e Risparmio in azioni ordinarie. E poi inoltre ha ribadito che Exor non dovrebbe accusare un impatto consistente da parte della crisi europea, e quindi questa è stata un'ulteriore notizia positiva. Ancora sotto pressione oggi Telecom, tra l'altro presentato il progetto per la banda larga, cioè l'alleanza con il fondo F2I, ma non è che il mercato abbia reagito con un eccesso di entusiasmo, per essere buoni, meno 3% il titolo oggi. Meno 3% perché si teme che in verità il fondo strategico italiano, la Cassa Depositi e Prestiti, investendo in questa grande Metroweb che replica il progetto Metroweb a Milano in altre 30 città, possa far concorrenza alla stessa Telecom Italia. È tutto da vedere, visto che lo stesso Gorno Tempini ieri ha dichiarato che in verità il progetto potrebbe essere sinergico rispetto a Telecom Italia. D'altra parte la verità è che sembra che Telecom Italia e questa grande Metroweb procedano su due strade diverse, e quindi si inizia a fare i conti con un'eventuale concorrenza. Ancora titolo dell'auto bene oggi in Europa. Invece per quello che riguarda altri titoli del mercato, ricordo che di banca abbiamo citato solo la Popolare Milano, ma anche la Popolare Emilia Romagna ha perso il 3,21, Monte dei Paschi meno 2,20, Unicredit meno 1,40, Mediolanum meno 1,60%, Banco Popolare meno 1,30, Ubibanca meno 1%, Intesa San Paolo meno 0,60, Eni per uscire dai bancari meno 0,40%, come Enel. Tra chi invece ha guadagnato, oltre a Impregilo Exor, anche Prismian, l'ex Pirelli Cavi, più 4,70%, Azimut più 4,20%, Luxottica più 4% come Fiat, appunto, auto, Buzzi Unicem più 3,90%, Tods più 3,40% come Pirelli, Saipem più 3,20%, Tenaris più 2,70% come Fiat, Camion e Trattori, come la chiamiamo noi, Industrial, Parmalat più 2,4% come ST Micro Electronics. Migliori e peggiori in assoluto sul mercato oggi, tra l'altro Eleonora di Fiat abbiamo ampiamente detto, ma il miglior titolo in assoluto si chiama War IVS Group, chiedo scusa per l'ignoranza, bene anche da Roma Calcio e la Juventus, evidentemente vabbè, evito ogni commento. Gefran più 9,50, Telecom Italia Media Risparmio il peggiore meno 9%, CHL meno 7,14%, male anche la Prema Finanziaria meno 5,51%. Nel frattempo dagli Stati Uniti prosegue il calo di Facebook, la più grande per ora fregatura della borsa degli ultimi tempi, almeno in America però, meno 5% a $30 per azione. Gli indici americani segnano comunque un progresso dello 0,80% sul Dow Jones e il Nasdaq più 0,70%. Nel resto d'Europa Parigi ha chiuso con un più 1,40%, Francoforte più 1,16%, Londra più 0,60%, Milano nel finale più 0,38%, euro adesso sotto quota 1,25 a 1,24,79. Grazie, Don Michele. E adesso noi ci occupiamo di previdenza, di esodati, soprattutto visto che oggi c'è un incontro importante del presidente dell'INPS e il ministro Elsa Fornero. 349-238-6666 per i vostri sms. Il presidente dell'INPS, Mastrapasqua, dice Antonio Mastrapasqua, la soluzione non può riguardare solo i 65.000 ma tutti anche gli altri esodati. Ascoltiamo al microfono la nostra Alessandra Schepisi. Credo che il governo debba riflettere con le parti sociali quali sono le categorie che si ritengono esodati, a valle di questo l'INPS farà il calcolo. Condivide l'espressione del ministro Fornero che ha detto gli esodati sono un costo della riforma? Sono espressioni che rappresentano un sentimento ma non possono diventare una realtà, nel senso che quando si sono fatte le riforme, quando si fanno le riforme delle pensioni, tutte le persone che si trovano nel momento di transizione, lo Stato, quindi non l'INPS o il governo, lo Stato le debba necessariamente garantire ed aiutare. Questo credo che sia un dovere di ogni Stato civile e questo spero che sarà fatto anche dal nostro Paese. Possiamo sintetizzare i punti principali di questa relazione annuale? Ma i punti sono che nel 2011 c'è un avanzo finanziario di quasi 1 miliardo, quindi nonostante il 2011 sia stato forse l'anno peggiore, abbiamo chiuso con un avanzo finanziario. Le prestazioni dell'Istituto numeriche e quantitative di efficienza sono quasi straordinarie, sicuramente la crisi continua, sicuramente la sfida è importante soprattutto per colmare i gap sia sociali del paese che quelli di una grande sfida che è quella di integrazione dei trenti previdenziali. Diciamo che il ministro Fornero ha detto con questo decreto sistemeremo i 65.000, poi una soluzione anche per gli altri. Sentiamo il ministro sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Noi abbiamo detto che la riforma comporta dei risparmi. Se dobbiamo spendere delle risorse per tenere conto di persone che sono uscite e non hanno più un lavoro, lo faremo. Quello vuol dire che la riforma avrà un po' meno risparmi, quindi quello può essere considerato un costo della riforma. E la riforma non si riapre. Che non si riapra la riforma, vuol dire la riforma è fatta. Abbiamo 65.000 persone, che adesso sono persone e non categorie, che vengono salvaguardate. Vengono quindi, a queste persone si scriverà una lettera, si dirà guardi che lei, signor Rossi, può andare in pensione secondo le vecchie regole. Ci dicono che non bastano perché ci sono altre persone che magari sono con accordi di mobilità che non erano inclusi quindi nel primo. Allora il governo non è né sordo né cieco ai problemi del paese, soprattutto in un giorno in cui muoiono 9 persone. Benissimo. E allora noi cercheremo di risolvere anche questo. Questo non vuol dire che abbiamo il numero esatto ora e soprattutto non abbiamo l'accantonamento. Lo risolveremo? Sì. È un problema che stiamo studiando e che si discuterà. Questo è. Allora, una piccola postilla. Ministro Fornero, nessuno ha mai detto che il governo sia sordo e insensibile alle esigenze del paese, però insomma non sia sempre sulla difensiva. Cioè avete combinato un casino con questi esodati, è inutile girarci attorno. Cioè la riforma delle pensioni è partita a dicembre, siamo a maggio, a fine maggio stiamo ancora ragionando sul decreto per 65.000 persone che si trovano senza la pensione e senza il lavoro e che non avevate previsto inizialmente, perché ve ne siete accorti quando poi il problema è nato. Avete fatto voi la riforma, mica aveva obbligato, sì, aveva obbligato l'Europa, ma ci si poteva pensare se uno è così bravo. Dopodiché 65.000 è un numero provvisorio parziale, ho capito che ci state pensando, ma tenete anche a mente quella che è la sofferenza, il disagio, roba da causa civile nei confronti di chi si ritrova senza un lavoro perché ha accettato lo scivolo per uscire dall'azienda e senza una pensione. E faccio notare che centinaia delle mail che riceviamo, su migliaia di mail ricevute per disperati mai, citano anche il caso di chi si è trovato in quella terra di nessuno tra coloro che sono sospesi per una riforma che voi avete prima varato e poi vi siete accorti degli effetti che aveva. Allora, siccome qua va bene fare i professori, ma ogni tanto anche ammettere che si è presa una topica non fa male.